Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Ti svegli e ti accorgi che è stato eletto il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Non appena ti chiedi chi sarà mai il nuovo presidente, alzi lo sguardo sullo schermo della TV e vedi un giovanotto con la pelle scura, con un bel sorriso stampato sul viso. È lui il nuovo presidente, incredibile! Dopo che per 2 anni nemmeno ci hai pensato alla campagna elettorale americana, dopo che per una vita hai pensato che in fondo, negli Stati Uniti come altrove, chiunque sia il presidente, la politica è sempre e comunque fatta dal potere economico, dopo che ti sei disgustato della politica del tuo paese, dopo tutto questo, la sola idea che un giovane sia diventato presidente ha cambiato l'umore della tua colazione e probabilmente della tua giornata. La delusione è stata tanta negli anni che è bastato un volto in apparenza sincero a mettere le ali all'entusiasmo. Lo ha messo ai giovani americani, lo ha messo a me e credo al mondo intero. Probabilmente c'era in noi un immane bisogno di speranza. Obama, credo sia prima di tutto questo. Speranza. Domenico, Salerno. I festeggiamenti a reti televisive e radiofoniche unificate per l'elezione di Obama, che ovviamente non ci sarebbero stati qualora avesse vinto il Maverick McCain, sono una prova, se ce ne fosse ulteriore bisogno, della persistente ed asfissiante egemonia culturale della sinistra. Altro che asservimento berlusconiano. Alessandro. Cara Radio 24, l'elezione di Obama ha riacceso la speranza. Credo che Obama possa finalmente incarnare e provare a realizzare il sogno del 68, di un mondo più giusto e più altruista, più vicino alle esigenze degli uomini e meno a quelle del mercato. Quel sogno non si è mai tradotto in azioni politiche concrete. Negli Stati Uniti, infatti, il Partito Democratico non fu in grado di recepire il messaggio e farsi carico delle aspettative. Lasciò campo libero alla reazione e da lì, anzi, iniziò la sua eclisse che ha visto il succedersi dei governi repubblicani dei vari Nixon, Reagan, Bush padre e figlio, cui i governi democratici di Carter e Clinton non furono davvero alternativi, perché schiacciati dalla logica imperante della supremazia del mercato. In Europa, i partiti che provarono a cavalcare il movimento erano compromessi con l'ideologia sovietica e asservirono quegli ideali ad altri disegni imperialistici, che sono finiti come ben sappiamo. Ma le idee non muoiono mai e oggi, dopo 40 anni, Obama può provare a realizzare quel sogno. Sto sognando? Forse, ma non sono il solo. Vittorio. Gli italiani dovrebbero capire che i democratici americani non sono né fratelli né cugini dei nostri del PD. E poi in America non esistono né fascisti né comunisti. Marco, Pisa. Mentre tutto il mondo guarda alle elezioni americane, resto attonito di fronte alla realtà che il nuovo presidente non sarà più il poliziotto del mondo, il padrone globale, il grande fratello dell'Occidente. Nulla potrà il nuovo presidente degli Stati Uniti per fermare l'ascesa di India e Cina. C'è chi crede nella teoria secondo la quale le guerre sarebbero nient'altro che una ciclica autodifesa del pianeta dalla sovrappopolazione. E forse ha ragione. Siamo in troppi a respirare, vivere e mangiare su questo pianeta. Ed abbiamo per lo più esaurito le sue risorse. Impazzisco al pensiero che in Italia ci siano 60 milioni di persone accalcate in un territorio piccolissimo e senza risorse idriche ed energetiche sufficienti per tutti. E anche quelle alimentari segnano il passo. Gli States hanno poco meno di 300 milioni di abitanti sparsi in un territorio ricco di risorse ed enormemente più grande dell'Europa. E la casta politica italiana cosa fa? Chiude forse le frontiere? Risolve forse la questione meridionale e conseguentemente quella settentrionale? Attacca forse frontalmente mafie e mafiette, lobby e cosche che inquinano gravemente il paese? Riduce forse la spesa pubblica chiudendo le amministrazioni provinciali, riformando la scuola e riducendo il suo indecente 1,5 milioni di addetti che ne fanno il più grande datore di lavoro d'Europa che produce la peggiore formazione in entrata e in uscita di tutti i paesi occidentali? Consegna forse ai cittadini italiani una giustizia vera? No. Non mi pare. La vergogna planetaria dell'indulto non va in questa direzione. Anzi, al contrario. Premia i delinquenti e punisce i cittadini onesti. e le carceri sono di nuovo piene. E i cittadini pagano il soggiorno dei delinquenti. Perché la verità è che in Italia la giustizia esiste solo per chi se la può permettere. Gustavo Varese. Ho sentito la lettera di quell'ascoltatore che invitava a tacere coloro che non conoscono il mestiere del pilota, che non hanno conoscenze del trasporto aereo, eccetera. A che titolo vengo invitato a tacere? Io, piccolo imprenditore, che non posso accedere neppure alla cassa integrazione, mentre un dipendente all'Italia rischia di poterne fare ben 7 anni. Ovvio che non posso conoscere i meccanismi interni del trasporto aereo, ma che ne sa un pilota dei metalmeccanici e di come non possono fare altro dal di fuori che avere un'opinione negativa di un modus operandi che appare sempre e comunque privilegiato. Vorrei dire a questo ascoltatore di vergognarsi e di tacere a sua volta, di andare a volare, se è un pilota, per la China Airlines come un normale operaio. Vada a Shanghai a montare gli impianti che laggiù sono stati venduti dal suo datore di lavoro. Lettera firmata. L'Alitalia, grande azienda spremuta economicamente sino all'osso dalla sua stessa dirigenza, oggi esprime il proprio malcontento. Nonostante venga dato un futuro alle migliaia di famiglie che altrimenti sarebbero disoccupate, il sindacato per la seconda volta si permette di abbandonare il tavolo istituzionale, rischiando di mandare all'aria le trattative. Il nostro governo incentiva e promuove con grande interesse la collaborazione industriale e commerciale con il Vietnam, la Cina, la Macedonia e altri paesi esteri. Vorrei chiedere ai nostri politici di destra e sinistra e al sindacato tanto premuroso per la classe operaia di aiutare anche il nostro settore. Io sono un piccolo imprenditore di un'azienda nel settore calzaturiero, con circa 15 dipendenti. Da 10 anni entro in fabbrica la mattina alle 6 ed esco alle 20. Non ho sabati festivi e spesso lavoro anche la domenica. Chi può pensare veramente a dare un aiuto reale alle nostre piccole imprese del terziario e del manifatturiero? Cadiamo da anni uno dopo l'altro. Nonostante la crisi evidente del settore moda, nessun governo ci ha dato un sostanziale aiuto. Le banche in genere ci chiudono le porte prima di entrare e combattiamo ad ogni minuto con la concorrenza estera asiatica nell'Asia e in Italia, gestita da gruppi di cinesi con i quali è impossibile competere per motivi che tutti sappiamo. Mi chiedo, caro direttore, a chi importa se migliaia di famiglie negli ultimi 10 anni hanno perso il lavoro? A chi importa se centinaia di imprenditori hanno dovuto chiudere le proprie aziende schiacciati dalla competitività sleale? Luca. Caro direttore, ho sentito una risposta ad un ascoltatore che aveva scritto sostenendo la tesi che era stato un errore eliminare la contingenza. Gli è stato risposto sostenendo una serie di aspetti negativi che aveva questo istituto, che favoriva l'appiattimento, che era in conflitto con la produttività e tesi analoghe. Queste ipotesi presuppongono che la torta da distribuire per la remunerazione ai lavoratori sia un ammontare complessivo che non ha alcuna possibilità di essere aumentato. Allora, a che serve aumentare la produttività se la torta rimane la stessa? Quale vantaggio ha la categoria dei lavoratori ad aumentare la produttività stessa? Se le risorse da distribuire ai lavoratori aumentassero con l'aumentare della produttività di un'azienda, non ci sarebbe alcun conflitto tra la contingenza ed eventuali premi di produzione da distribuire ai lavoratori che hanno standard di produzione maggiori. La realtà è che negli ultimi anni la forbice tra le risorse da distribuire ai lavoratori e quelle da distribuire alla dirigenza è aumentata a dismisura, come sappiamo e con i risultati che conosciamo. Cioè si sono create oligarchie di dirigenze per nulla meritevoli delle risorse che hanno assorbito, che addirittura hanno dissanguato le aziende che dirigevano, diminuendone il valore a scapito dei risparmiatori, che in molti casi sono i lavoratori stessi, perché anch'essi risparmiano ed investono, specie nei fondi pensione, che sono stati incitati a sottoscrivere con lo spauracchio di una previdenza incapace di fornire loro un sostentamento una volta giunti all'età del pensionamento. In questo caso, doppiamente gabbati. In molti casi, la stratificazione salariale non ha nessuna giustificazione in relazione alle mansioni svolte. Serve solamente a creare gerarchie salariali per dividere i lavoratori che, per pochi euro in più, lottano fra di loro partecipando a selezioni interne che hanno l'unico scopo di dividere, in quanto poi in seguito, sia i vincitori che i vinti, continuano a svolgere le stesse mansioni che svolgevano prima. Che altro significato dare a tali inutili selezioni? Valeria. Cara Valeria, i problemi che lei pone sono gravi e oggettivi, ma mi permetta, non metterei in relazione il problema generale della salvaguardia del potere d'acquisto dei salari con le remunerazioni degli alti dirigenti. Il fatto che queste ultime siano aumentate fuori di ogni ragionevole limite negli ultimi anni è sicuramente una delle distorsioni che stanno alla base, insieme a tante altre, dell'attuale crisi finanziaria. La distorsione di fondo è determinata dalla possibilità che i grandi manager hanno di far crescere i propri compensi attraverso operazioni di breve termine, spremendo le aziende in modo da ottenere rapidamente utili e profitti, ma in questo modo compromettendo le possibilità di crescita futura. Il sistema dei benefit legati ai risultati aziendali e soprattutto alle stock option ha avuto effetti perversi, soprattutto negli anni scorsi. I milioni di dollari pagati ai manager americani a capo di banche d'affari poi fallite sono uno scandalo che non va passato sotto silenzio. I salari dei lavoratori fanno capo ad altre logiche, quello del merito e della produttività innanzitutto, senza dimenticare che perché ci sia un salario deve esserci anche un'azienda sana in grado di avere ricavi e utili, utili che dovrebbero andare a vantaggio direttamente o indirettamente di tutti i lavoratori. Egregio direttore, scrivo per segnalare una situazione incresciosa di cui sono testimone. A Milano, davanti all'Istituto per la cura dei tumori, martedì mattina ho visto uscire dall'ospedale una coppia di coniugi molto anziani, i quali, con passo malfermo, si sono recati alla loro auto per tornarsene a casa, ma lì si sono accorti che sotto il tergicristalli c'era un verbale di contravvenzione, fradicio di pioggia. Chi conosce la zona Città Studi di Milano sa che durante il giorno è difficilissimo trovare parcheggio nei pochi spazi a disposizione. Perciò, se l'ora dell'appuntamento per la visita o la terapia incombe, si mette la macchina fuori dagli spazi, ma in modo che non impedisca il transito dei veicoli, e si lasciano le chiavi al parcheggiatore, perché la sposti appena possibile. Ci sono altre soluzioni? Non credo. Anche altre macchine erano state multate e qualche giorno fa ho visto anche rimuovere un'auto col carro attrezzi. Non sembra eccessivo accanirsi contro chi sta certamente vivendo un brutto momento della sua vita, complicandogliela ancora di più? Perché non istituire con la collaborazione dei sanitari dell'ospedale un contrassegno da posizionare sull'automobile, che attesti che il proprietario del veicolo è in cura presso l'ospedale e non è in grado di utilizzare i mezzi pubblici? Lì c'è l'università e forse gli studenti potrebbero parcheggiare più lontano o raggiungere l'Ateneo con la metropolitana o altro. Vorrei dire al sindaco Moratti che sarà pur vero che non ci sono più le entrate derivanti dall'ICI, che il governo ha dato soldi a Catania e li darà a Roma e non a Milano, ma non per questo deve prendersela con i più deboli e più indifesi dei suoi cittadini. Forse in un momento come quello che stiamo vivendo, questa sembrerà cosa di poco conto, ma proviamo a immedesimarci in chi, già sofferente nel corpo e nello spirito, deve anche combattere contro l'insensibilità delle istituzioni. Diana. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.